stai? Sì, sono trappeso, hai trovato lo stare. Sei trappeso. Piano piano si tira avanti, nessun problema. Beh, mi è sembrato che stava andando qualche nulato avanti. Buongiorno Gianni. Ui, Antonio Grosse, tutto bene? Benissimo, caro. Ma grazie per il caro. Andava bene, sono contento per voi perché io sono tutta a pezzi stasera. Stavo pulendo le cose. Da Carrefour erano a 1 euro e qualcosa. Le cozze, di Olbia. Oggi arrostita di carne. Ma io le stavo pulendo, poi le cucina perché se no perdono l'acqua e cose, se non sono cattive, capito? Le cuciniamo direttamente, qualcuno le assaggiamo stasera, per il resto domani magari le scaldo e sono buone lo stesso. Anzi, quando hanno riposato in mezzo alla bagna che l'ha giù fatto, già vanno bene. Ho messo un po' di peperoncino e tutto, l'ambaradanci cicocco. Comunque, cazzo, ne abbiamo preso 4 chili, ma vedrai che non è manco la vediamo. Ciao Ruggero, no, stamattina Fabrizio ha dimostrato di essere anche un bravo gravigliatore. E cosa avete fatto? Arrostita? Una mini arrostita, una cosa così, tre pochi intimi. Caraga, per me proprio stamattina, ma a livello familiare, non a livello di cibi. No, a livello ma così, ma al volo volandomi, niente di che, 2 giri di pancetta e un po' di fettine di cavallo. E già va bene. Ma io le ho trovate un bel buono le fettine di cavallo in via Baldezza. Tenere, sembrava burro. Ne ho messe a macerare, aglio, prezzemolo, peperoncino per un giorno e poi le ho fatte il giorno dopo, ma erano buonissime. Non se ne è accorta manco Manuela che erano di cavallo, se lo sa guai, perché non le mangia a cavallo. Ma di oggi sono ancora più buono per quelle d'asinello, se ci sono. Magava, già l'ho mangiata anche l'asinello, mi dico. Ma poi al Giso mangiavamo di tutto, anche il vitello ancora, che non so se l'abbiamo mangiato quello, hanno macellato una mucca e c'aveva il vitello dentro, il vitello me l'ho preso io, me l'hanno dato e l'ho portato, con al Giso l'abbiamo cucinato, ma tanto è buono, denaro dentro. Beh, immagino, scusa un attimino che faccio una passa, un attimo, ti riprendo subito. E a cercare avanti. Ehi, c'è problema, sono qua, mi stavo ascoltando. Hai ragione, buona. Io va bene mangiare ogni tanto. E noi anche abbiamo il vizio di mangiarla sempre. A casa a me se mi manca la zarra, mi manca tutto. Sembra che puoi fare uova, puoi fare frittate, puoi fare quello, puoi fare il resto. Ma la carne per me è un alimento che deve esserci tutti i giorni. Poi, quando si può, fra poco ci toglieranno anche quello. E vabbè, fino a quando si può, la mangiamo, quando non si può più, pazienza. Cos'è che fa? Tanto. Fra un po' siamo tutti capo, quindi. E vabbè. Non riuscivo a dire che stasera, perché stavo parlando con lui, che mi sono trovato anche un po' di difficoltà. Ma infatti hanno affacciato, le volevo dire sì, c'è una facciatura, non me la mettavo più. Bendaggio alla Desol. Come si chiama? Bendaggio alla Desol. Bendaggio alla Desol, va bene. No, mi riscrivo, se me lo ricordo, questo non mi chiedo. Ma c'hai la benda, la camicia, no, se non c'è la maglietta. Non trovo le fasce, non mi stavo, dove mi avete tutto. E allora, non mi sono espresso per non fare fiori di merda. Bendaggio da adesso, perfetto. Adesso lo so, dai. E il 9 devo andare a controllo, mi tolgono questa cosa, e me banda quella più fina probabilmente. Ma è quello che mi è caduto la testa, può essere sinistra. Perché? Non me lo ricordo chi sia, però lì dove c'erano i carabinieri dietro, visto, ti ricordi che Mameli ci aveva. Aveva Mameli un magazzino lì dietro dove c'è l'entrata dei carabinieri, però la parte di dietro dove mettono le macchine, dai. Ah, praticamente dove c'è il palazzetto, come si chiama? Esatto, però all'inizio c'è il magazzino di Mameli. Ma mi ricordo la torre campo di campo e stavano prendendo le termite da sopra e questo qua dove si è preso l'equilibrio è caduto e meno male c'era tutta l'attrezzatura, casco, imbragature, tutte queste cose qua ed è caduto, sì, si è fatto male, hanno guardato in ambulanza, non so manco se si sa, non so in che condizioni sia là. Però si è salvato, se no sarebbe stato già morto, l'hanno detto, se non avesse avuto il casco e quella roba lì, non ce l'avrebbe fatto. Sì, vabbè, per noi in quelle circostanze non è obbligatorio il casco perché sono le passerelle, le ringhiere, tutto ormai ha ceduto praticamente il passaggio, capito? Ha ceduto praticamente il passaggio, quindi bisogna verificare il suo perché. Del ferro L non è numero di saldatura, lasciamo sempre il tempo che trova, la saldatura per favore puntata e poi vuole saldata la roba, non solo puntata, perché la puntatura non resiste ai pesi e cose, si salda subito, invece c'è una saldatura ben fatta, un cordone di saldatura, resistiamo un po' di più. E si conferma, quelle erano solo puntate, quindi quella era solo puntata, gli altri hanno verificato i carabinieri, la sicurezza, tutto, perché insomma, adesso le hanno tutte saldate, messe in sicurezza, però oramai è successo, l'importante si possa raccontare, niente di particolare. Adesso Google ci induce, sono caduto anche bene perché mi sono girato, cercato di fare il gatto, ma non sono riuscito, ho preso il cestello sotto e mi ha spostato completamente dalla spalla. Però già va bene. La mano mi sta dando un po' fastidio perché c'ho dei punti un po' più su del palmo della mano, dove c'è il pollice. E mi dà fastidio quando piego, ho capito, mi tira, però già passa, l'importante è che sia tutto a posto. Vabbè, fai girare Gianni, già sono qua, non c'è problema. Ma ti devo dire un proverbio, aspetta, anima mala non i muri. Anima mala non i muri mai, infatti. Io sì. Così duccio, mi hanno detto sì, così duccio. Adesso tu immaginati che quando è 3 anni fa è caduto, è successa la stessa cosa in un altro impianto ed è ancora un infortunio, questo invece riprendersi con la spalla, con la gamba. Io già sono anche uscito oggi in macchina con la smart, in automatico, un braccio, ma già sono uscito stamattina. Non c'è problema, anche stasera sono andato fuori in commissione. Già mi muovo, dai, già. Piano piano già mi riprendono, non succede niente. Io guidavo anche con il bacino cessato, ero pazzo, di notte uscivo con il bacino cessato, guidavo un braccio, ma guidavo. Avanti Antonio Grodino. Alto! Stavo in cielo già, ma di quella penicillina in polvere che usavano un tempo, esiste ancora? Ma se il mercurio cromo perché non caga tutto. Penicillina non lo so, non ne ho più visto, quella col coso giallo e il tappo marron, quella di Stecce. No, quella in polvere, che cos'era? Quella. Penicillina non credo che. Non è penicillina, forse lo sapete voi, che era quella in polvere, che mettevano sulle ferite. Ah, per cicatrizzare. Cicatrene. Cicatrene, ma non esiste più. Sì, c'è in polvere, c'è anche in pomata quello lì, cioè sia in polvere che in pomata. Ma mercurocromo è un antibiotico, capito? Non ti fa... ti ammazza tutti, diciamo, se ci sono microbi, roba del genere, ti ammazza, c'è l'antibiotico, è a base di antibiotico, quindi fa anche bene, oltretutto. Ho capito. Ma caga tutto, dai. Volevo mettere in questi graffiti queste cose, questa penicillina, per vedere un po'. Ma non ho trovato questa cosa in polvere, dai. Non ho trovato, domani guardo in farmacia, se c'è. Ok, cicatrene in polvere. Così si chiama cicatrene in polvere. Cazzo. Ma proprio domani te ne fanno Giacopo, la vedi? Ti procurava, perché le gare, le cose mi ha procurato tutto lui. Ma deve fare già colpo la vedi se me la procura. La magari. Provo a chiamarlo. Occhio che siano garde. Che siano garde di quelle. Come si dice? Ti volevo dire una cosa, non me lo ricordo, non mi viene il nome. Esatto, che siamo sterili, perché noi usiamo case non sterili. No, io dico che siano quelle sterili, quelle buone. Quelle buone, dai. Cioè, tagli ci vogliono quelle sterili. Basta che tu la tocchi con la mano, coso. se non sei, se hai qualche microbo te lo contagi, capito? Non, è meglio con le sterili, non mi veniva anche la parola, ti immagini, a gas sterili, allucinante, e la stanchezza, ragazzi, mamma mia, ti fai dici di gabbo. Pazienza, cosa devi fare? Non si può, non si può stare sempre con i pensieri. Meglio le parole, opere e omissioni. No, io già no, mi ha dato un po' fastidio perché che dovevo andare in ferie. Avevo già terminato i lavori che mi avevano dato, tutto, che mi dispiace. Anche perché sono bloccato le ferie a un paio di persone, mi si girano al bar, però pazienza. Cosa vuoi fare? Mi hanno chiamato tutti, hanno detto, non ti preoccupare, l'importante è che ti rimetti in fretta e non c'è problema, lo devi vedere, fermo a luglio quando rientri tu. Io già me li ho fatti, anche se sono un braccio, ma insomma, già riesco a muovermi bene, non c'è problema. Mi spiace anche a me perché devo andare in ferie, devo finirmi alcune cose, avevo anche roba da fare sul tetto, montare un'altra antenna, finire la direttiva, insomma. Pazienza, pazienza, purtroppo è così e basta, non si comanda quando succedono queste cose, la devi prendere com'è. Un attimo, è che si immagina che gli manca il piano da sotto al piede, è come quello che c'è il terremoto, sta camminando, cazzo, si tremava da sotto di B. Lo so. Allora cosa hai deciso per il 12 giugno? Vieni alla Senato. 12 giugno? Claudio, non lo so, perché il 12 giugno forse io dovrei essere il figlio. Se me la danno, no, il 12 no. Che cos'è il 12? Che giorno è? Il giovedì è. Ragazzi, come faccio a venire? No. Non posso perché sto lavorando giovedì, perché io ce l'ho l'ultima settimana di giugno, le ferie, e la prima di luglio. Il 12 mi hanno dato il permesso, il 12 anche perché sono un paio di rianimatori, devono montare un ponte lì a Carareale, poi spostiamo a Carolico lì dopo. Poi c'è l'alloggio e gli facciamo radio. No, perché c'è in concomitanza con questa manifestazione, c'è anche il CISOM che prende visione del servizio medico, capite visione, oddio, prende tutto il servizio medico 12 e quindi non so che cosa facciano. C'è il sindaco, mio cugino Beniamino, c'è il Diana, il sindaco Istintino e poi altre autorità, altre cose, quindi per quello te l'ho detto, se volevi venire non c'è problema, già siamo in pochi, no? Mi ha invitato 3 o 4, ma già è tutto tranquillo, ci facevamo una bella mangiata di pesce e poi ce ne rientravamo la sera con l'ultimo traghetto. Va bene, nel caso hai qualche buco o qualcosa, avvisami, già capito, così prepari i biglietti. Kappa, se fosse stato avere i permessi ancora, io avrei chiesto un giorno di permesso, ma me l'hai tutti bruciati. Non hai più permessi, ti isolati, te li hai. Tu non ne ho più, no, tutti quanti bruciati, me ne hanno fatti tutti finire. Salivo 2 o 3 volte, sono salito in ufficio a dire che stavo già finendo. E vabbè, ce ne hai ancora, Dio le fatele ancora, perché poi non te le possiamo dare, questo e quella. E me ne giocurati, tutti fatti di sera. Senta dire, se li faccio fatteli qualche settimana di pomeriggio nel periodo più caldo, Casa Marco Vero le è sembrata loro, perché poi luglio e agosto lì c'è più lavoro, capito? E oltretutto ho sforato di due giorni, almeno ho preso anche due giorni di ferie, capito? Oltretutto che le ferie non ti buoni ducca. Vabbè, comunque, per la prossima volta non ci facciamo inciulare. Stai attento, segnati, vivi un po'. Quanto non te li becca, perché sono due furbi. No, io per me sì, ce li ho ancora tutti. Adesso devo andare in ferie, sfortunatamente sono un infortunio, quindi mi faccio sino al 21 giugno un infortunio. Poi vediamo cosa mi dicono, lo controllo, se devo proseguire, proseguo. Non mi ha tutti nulla, e poi le ferie me le faccio tutte assieme. Quest'anno, con questo che mi è successo, mi toccano tutti assieme, non c'è Cristo, quindi deve stare lì a girare il bar. Va bene, comunque nel caso abbi qualche spiraglio, ricordi, per il 12 giugno avvisami, così preparo un biglietto in più, capito? Ti ho già dato la prenotazione all'ufficio del parco e mi hanno detto mi faccio sapere esattamente quanti siete, così prepariamo i permessi. Va bene. Regalo. Mi qua, mamma devono per venire a pescare. A pescare lì, alla Senata? Già, se ti trattivi di notte io problemi non ne ho, perché ci abbiamo un alluccio. Se ti tratti di notte te lo faccio vedere io il pesce. Mamma mia, che cosa c'è lì, guarda, c'è una caretta. Noi abbiamo provato, ma un giorno, io sono rimasto l'anno scorso perché c'era un problema, un sollevamento lì a Carreale, e quindi praticamente c'è una pompa che andava a mettermi, come si arriva a livello, dovevi mettere il manuale, svuotare e mandare al depuratore per non farci male, perché lì il sollevamento praticamente nella piazzetta che c'è giù a Carreale, il tuo figlio già l'ha vista, che li ho visti lì col pulmino. E quindi la mente sono tutti bussati in chili, con la lampada, con la scusa che ogni tanto passava la forza, che era venire a me, la cimata, no, no, tutto bene, siamo qua. E noi due venetti a mano, una cesta che abbiamo fatto, violate, salponi di quelli grandi, di tutto si attaccava, ma urbani, la panna, monica di pane. No. Le salpe la mangiano la mollica, le salpe le occhiate. Sono un coso che abbiamo fatto con Claudio Corri, non so se lo conosce Claudio, di Porto Torsi, abita lì alla Cristo Resort, a Buchi di Demovati, e poi abbiamo nascosto nella macchina, ci abbiamo fatto dare lì a Carreale un po' di ghiaccio, l'abbiamo tutto appato, e ci abbiamo fatto a casa, ma roba lì era. Se me l'ho raccontato che è così, che quelli della foresta le catturano i cinghialetti, le mangiano. Cosa temere per un paio di pesci? No, se li prendono lo stesso, quelli della foresta. Se un giorno a uno della tua le hanno ha fatto un secchio di quelli di vernice, di funghi. Ma belli, faccia dalla foresta, c'è un faceto lì. Così, non sto raccogliendo, no, li butti a terra e lasci stare lì. No, non li può contare. Ah, ce l'ho meglio tagliati, un peccato, no, perché, guardi che, no, li butti a terra, li butti a terra, ci sono stati bulbi. Hai trovato un bulbo alla mattina, ecco, adesso ho avuto paura. Li ha buttati già, proprio li ha scaricati per terra senza buttarli, senza frappinarli, no? Li ha messi lì, e poi si è partito, ha detto qui, all'abbugiatore, mi rinvio, e il tornato non c'erano più, che cazzo non sapeva che erano lì solo loro, e se erano presi loro. Allora, mi abbiamo trovato l'oceano che c'era con più funghi, così ce l'abbiamo pronti per stasera. Dice che facevano certe arrostite, dice che fanno una specie di tipo una trappola, no, per i cinghialetti, li mettono da mangiare in questo recinto, loro entrano dentro per mangiare, li chiudono dentro e poi li sparano e ce li mangiano. Quindi, dice lui, c'è giù visto, lascia aperto, arriva, io ho visto e tutti i colori di io, ho fatto, l'anno scorso ci ho fatto tutta l'estate, e mi ci dia, è quello che fa quella gente. Poi escono, sembra che escano a fare i controlli, e invece tu vedi, magari sei per dire, a me è capitato una volta, ero una sera su Tari, a Calabriva, che è molto alto, a vedere lì proprio la piana sotto dopo le carceri. Ti vedi un po' una lampadina, e tu, ma ti lampadini in viso. Mi sono informato, e tu lampadini se non sono rondeo, quella lampadina i carabinieri che se ne vanno a pescare lì nelle rocce. Ma sai, a Calamari se ne va. Io a Calamari a Svigo e Orate. Lo primo che ci poneva la multa faceva caccia su barco la notte, per carità. No. Hanno, mi pare che allora noi un periodo abbiamo preso la carne di cinghiale a battuta la Sinara. Praticamente ci sono queste persone pagate apposta per portare via un po' di cinghiali dalla Sinara perché si sta tutto riempendo. E allora fanno danno e cose, allora un po' li portano via. Quindi macellavano e li vendevano come carne di cinghiale e l'abbiamo avuta anche noi. Sì, come tutto la fanno, ma c'era un periodo che praticamente li hanno dato l'ok per portarli via, come hai detto tu, no? E l'ok era quello di portarli vivi e per portarli dall'altra parte, per praticamente filiare, insomma, fare compagnia di altri. Poi hanno scoperto la barca stesso che li hanno ammazzati, non è che li hanno portati da altre parti, capite? Una parte dovevano essere portati al parco Gennargento e invece si erano immagnati. Un bel dietro roccia. Io in un documentario avevo visto una volta. C'era questo pastore che faceva pastore e anche pescatore, c'aveva questa imbarcazione e trasportava le mucche da Stintino alla Sinara, li lasciava allo Stato Brado, le tirava con la barca in mare, loro nuotavano, le tirava in mare e le trasportava da Stintino alla Sinara, poi le metteva sull'isola Piana, mi pare. O alla Sinara, non so dove cacchio lo metteva, alla Sinara forse. Vabbè, fatto sta che le metteva così, le faceva nuotare in mare e poi tutto le lasciava allo Stato Brado così tutta la stagione, come facevano i vitelli, tutto praticamente ogni tanto andava a controllarle e ci avevano foraggio per tutto l'anno. Sì, ce n'è uno che lì è secolare. C'è un allevamento di vacche allucinanti, è ancora munge, latte di vacca, e non so a chi lo dia, boh. Io lo vedevo spesso che trasportava questi biluni, queste cose, è un po' di bestiame c'è ancora, però oramai è tutto finito, non c'è più niente, nulla già, non c'è più niente, mi ha trabucato, lì c'è un pastore, c'è un po' di pecore. Però mi ha detto che perlomeno c'è poca attività, anche il pascolo non è più come quello di prima, capito? Prego, con la buonasera dalla città di Ferro. Avanti, buonasera. K di positivo, buonasera a tutti. Ciao Gianni, saluti a Sparviero. Ciao Claudio, la te Mike. Ciao Sandri, qui siete di noi, come mi hai visto tu a petto nudo, a prendere aria un po', all'abbraccio. Stasera sono uscito, ero di capici guscio, mi sono trovato la spugna piano piano, e tutto bene. Va bene, dai. Diciamo che nell'arco ho acceso un attimino qua, che è un paio di giorni che non accendevo, per vedere un attimino se tutto fungeva. Va bene, ok, dai, ciao, niente al Mike. Ciao Sandro, ben sentito, dai, anche a te. Stavamo dicendo con Chiodo che ne credo anche uno dal Cotta Prodottoso, lo conosci Vittorio? Non ti ho capito Gian, lo conoscevo, eh? Quello che è caduto dal tetto a Prodottoso, sì. Che è caduto dal tetto? È caduto dal tetto, ma questo quando è venuto? Sera, di fronte a casa di Gianluca, lì, dove sono i carabinieri, di Antonelli, dietro. Dietro, per intenderci, dove c'è il magazzino, non so se lo sai, ma mi... è tratto. Avanti, Grodino, saluta anche qua a Sandro, va? O Sandrino. Ok, un attimino che mi sono messo un attimino le cuffie. Ciao, Grode, buonasera. Ben ascoltato anche a te, dai. No, purtroppo non ho saputo niente, va perché sono quasi sempre fuori da Paolo Torres, no, niente. Ciao Crobe, buonasera, te al Mike. Va caro, oggi stavo controllando una cosa, poi ti devo ragguagliare in merito a delle cose che ho visto, e comunque ne parliamo al limite tramite passare, non è urgente, assolutamente. Ok, Anto, va benissimo, va bene, dai, ne parliamo un attimino tramite bassa. Ok, va bene, Gianni, quindi è successo che questo è caduto, cosa è successo? Tienimi aggiornato. Sta parlando delle termiti dal tetto, capito? Sta parlando di queste termiti dal tetto, probabilmente era sul magazzino di cose, di quello del tuo ricambio di mamma. Praticamente risulta dietro, visto dove c'è quel negozio di ferramenta che fa angolo, appena piovati, se tu guardi c'è una casa con tutto il tetto che è smantellato, stavano facendo quel lavoro lì, e sicuramente scivolate e caduto lì. Ho capito, sì, più o meno ho capito dove si trova, quindi... Quindi diciamo un discorso occidentale, e tutto quanto. E vabbè, in conclusione cosa si è fatto? Questo non te lo so dire, comunque sul giornale di oggi me l'ha detto che c'è, tu ce l'hai il giornale? No, a parte che lo spirito giusto al mattino così... il giornale gli do una sbirciata così veloce al mattino quando prendo la caffeina prima di mettermi in moto e poi niente, però non ci ho fatto caso. Va bene. No, credo che sul giornale di oggi ci sia una cosa più vergognosa, che la denuncia che è stata fatta dopo l'arresto di questa signora, di questa pensionata che aveva rubato alla Conad di via Armando Diaz delle fettine di carne e un pacco di ravioli. Oltre che l'hanno arrestata e messa sul giornale, sembra che il direttore della Conad di via Diaz, che io direi definire un miserabile, l'ha anche denunciata e vuole portare avanti la denuncia per furto. Miserabile. Sì, ma aspetta Antonio, se ti blocco un attimino. Allora, riguardo diciamo la parte amministrativa, noi giriamo un attimino la pagina, andiamo verso la parte amministrativa, questo direttore logicamente ha dovuto prendere questa decisione, questa precauzione diciamo per questioni amministrative. Perché tu sai benissimo i determinati punti di questioni non è che potrebbe sorvolare, senz'altro è una questione amministrativa. È una questione, io parto dal presupposto che siccome il primo arresto viene compiuto all'interno del negozio, ma io sapevo si ruba un pacco di fettine, cose del ravioli, oggi come oggi, gli devono mettere una busta di pane, un litro di latte, gli mettono anche 10 euro in tasca. È una vergogna che siano arrivati, beh, una volta, è normale che poi devono seguire l'iter una volta che c'è la denuncia e che intervengono le forze dell'ordine, ma non arriverei neanche a farlo. Secondo me è una pessima pubblicità per la catena, è una pessima pubblicità per il magazzino, io non sarei mai più andato, guarda. Non lo so Antonio, non vorrei contraddirti, diciamo, in quello che tu adesso in tua coscienza stai dicendo, però mettiti un attimino adesso sui panni, sull'operato di questo direttore che conduce, diciamo, un'attività, ok? Che ha, diciamo, delle funzioni ben precise. Logicamente lui ha dovuto seguire sulla parte amministrativa, io parlo sulla parte amministrativa, questa procedura qua. Lui, non dovendo seguire questa parte di procedura in quanto tutto l'accaduto, logicamente, diciamo, la parte diciamo superiore, la parte, diciamo, che conduce veramente le radici, diciamo, della catena di distribuzione, sarebbe stato preso. Quindi io penso che lui dovrebbe agire in proporzione, diciamo, alla parte amministrativa. Tu hai ragione, io ho capito che lui deve seguire un iter, perfettamente d'accordo, ma questi qua sono le stesse persone che poi vanno a fare della finta beneficenza per farsi pubblicità in associazioni tipo quella con cui collaboravo io, che era quella, si chiamava la Casa della Fraterna Solidarietà, dove fino all'anno scorso consegnavano massimo 500 pacchi al giorno a chi spesa, adesso ne consegnano forse più di 3.000 al giorno. E questo perché? Perché è un metro che ti fa capire quanto la società sia cambiata, quanto ci siano i nuovi poveri. E poi magari i pacchi provengono proprio da supermercati quali questa qua, la Coop, ecco, comunque supermercati tipo il Conad, perché non questa è il Conad, non la Coop, comunque anche la Coop collabora. Allora dico, mentre qualcuno che ruba non un bene voluttuario, ma un bene necessario, primario, come da fare lo denunci, soprattutto poi se ti rendi conto che è una pensionata e magari ha la pensione minima, perché questa ha più di 60 anni, più di 65 anni. Non sarei fatto due giri di vergogna. Faceva bene Ugo Multinetti, sai cosa faceva? Non aveva l'antipatteggio, perché lui si era reso conto che uno che fa l'antipatteggio è costa 1.500 euro al mese. Prima che la gente si porti via 1.500 euro al mese, ce ne vogliono di laveri. Il tuo discorso, diciamo, non fa una piega, caro Antonio, però logicamente, diciamo, adesso questa povera signora, chiamiamola povera signora, poi bisogna vedere tutto l'inghippo che c'è dietro. Logicamente, poniamo il caso che abbia portato via 10 euro, 10 euro a una catena di distribuzione, non sono niente, è un baffo, però logicamente questo direttore, questo capo servizio, chiamiamolo come vogliamo, logicamente ha dovuto reagire in proporzione, diciamo, alla normativa, e se non reagisce in proporzione alla normativa, vieni ripreso e vieni magari quant'altro. Quindi non è tanto le 10 euro, perché una catena di distribuzione non gli fa niente con 10 euro. Lui logicamente si è trovato, diciamo, a portare avanti la parte amministrativa. Tutto lì, va bene, è tutt'altro. Va bene, Claudio, è il mic. Sì, questo mi sembra aver registrato un break. Sì, Sandro, ma non do torto al discorso che fa Antonio, nel senso che se una persona di 70 anni più o meno arrivata a fare un gesto del genere, in gergo sassarese si dice si va di baffami, quindi se questo direttore, chiama come lui, responsabile del market stesso, ha fatto un'azione capo, stavo sentendo un discorso, stavo sentendo. Ma sono un po' una cosa a parte. Salutarvi tutti perché mi sto proprio addormentando di brutto, dai, stavo già soppiando. Beh, sono un po' piccolo di almeno, so che sei entrato perché ho già mezzo dormito e vi auguro buonanotte. Allo sbidere e non intendere, siamo proprio auguri e cose belle. Aspetta un attimo che ti racconto un'altra cosa prima di andare via. Allora, stasera, e questo è per tutti quelli che non pagavano il canone RAI, purtroppo è passato da essere canone RAI vero e proprio, è passato all'ufficio delle entrate, adesso la gestione, perché è una tassa governativa. Fatto sta che quando ci hanno spedito il censimento c'era una tabella da barrare dove c'era scritto se avevamo o meno la connessione internet. Quindi una casella era se avevamo il televisore a casa, e molti, credo ci fosse anche questa come domanda, comunque non l'hanno barrata. Nel momento in cui hai barrato il fatto di avere una connessione internet, implicitamente stai ammettendo di avere un computer, di conseguenza, o un telefonino, di conseguenza hai, secondo loro, uno strumento atto a ricevere le comunicazioni e le trasmissioni RAI, e di conseguenza devi comunque pagare il canone RAI, che adesso è diventato amministrativo dal punto di vista dell'ufficio delle entrate, e quindi da adesso in poi partiranno le sanzioni. Se accetti ti fanno pagare 68 euro a tutt'oggi, non ci sarà sanzione, ti fanno pagare come se tu comprassi il televisore per la prima volta adesso, quindi devi pagare solo 68 euro. Se non li paghi entro due mesi partono le sanzioni amministrative. In due parole, sani buttisdo. Poi dal televisore, dal computer puoi vedere anche il televisore, quindi è giusto che sia così. No, sono venuti, stavo andando anche nei bar a controllare se pagano sia la SIAE quando mettono musica e sia il televisore. Infatti è quello che ti volevo dire, proprio perché attraverso streaming si può ricevere, trasformare il computer in un televisore. Adesso, anche se hai solo il televisore a casa e non hai un televisore normale, cioè se hai solo il PC a casa e il computer e non hai un televisore, comunque devi pagare il canone RAI. Per assurdo, nel momento in cui dichiari di avere una connessione internet, potresti avere anche solo il telefonino e di conseguenza dover pagare comunque il canone RAI. E tutte le truffe, oramai stanno spingendo la cerchia di chi, ma io conosco gente che non ne ha bisogno, Antu, e non ha mai pagato né la radio col bollo della macchina, quando c'era prima del bollo che si pagava la radio, né il televisore, ed è gente che non ha bisogno di nulla. Sì, ma quella cosa, la cosa assurda, è il mezzo infame che hanno utilizzato per sgamare la cosa, mettendo una domanda che poco c'entrava, con il censimento. Perché hanno messo questa domanda così? È una domanda a trabocchetto. Capito? Eppure siamo la nazione europea che ha meno connessioni internet rispetto a livello nazionale, perché in molte nazioni la connessione internet è gratuita, noi siamo gli unici che la fanno pagare. Comunque, quindi preparatevi perché arriverà una persona, un ufficiale, non giudiziario però, polizia giudiziaria più che altro, mostrerà il tesserino della RAI, come è successo stamattina, e vi darà il bollettino da pagare. Ma io non ne ho problemi, l'ho pagato, quindi sono tranquillissimo, l'ho sempre pagato. Scusate, ma nella connessione internet non l'ho pagata a parte, cioè se uno è connesso a Tiscali come me e c'ha il suo bollettino, quindi collegato alla linea telefonica, eccetera, ma il televisore su internet non me l'ha fottuta. Cioè che cosa deve esibire uno? Domanda. Il computer metterti da modo di poter vedere programmi televisivi, quindi praticamente che lo guardi al computer, che lo guardi al telefonino, che lo guardi al televisore, sono sempre dei mezzi che praticamente ti permettono di vedere il televisore. Beh, ma io posso dimostrare accendendo il computer che non ho nessuna connessione alla RAI, cosa? Io ho una pagina di Tiscali e guardo le mie le Tiscali, basta, a me della RAI c'è il bollettino pagato la RAI e basta, il bollettino pagato i Tiscali e poi collegato alla linea telefonica di casa, quindi vabbè, bene, sapessi, rimaniamo in agguato. Avanti Sandro. Sì, ecco, ci sono. Cos'è il Sandro? Aspetta. Cosa hai già capito? Pupazzi che vieni. Come lo sentire, com'è? Questo è diverso, eh. Signal, fermo restando che il canone speciale non va fornita alcun risposta nel caso in cui tale impresa, società ed enti abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori, cioè quindi limita il campo applicazione del tributo ad un'utilizzazione molto specifica del computer rispetto a quanto previsto in altri paesi europei per il loro. Che nella richiesta del cane hanno inserito poi apparecchiati, eccetera, quindi praticamente dice, come io gli dicevo l'altro giorno, era una cosa che ho mandato dalle lettere, via Mancini, la RAI aveva precisato che era solamente per quelle imprese, ma una piccola impresa che utilizzava il computer, si appendeva adesso nel suo studio per far vedere utilizzando tramite la rete, punto. Ma non per noi, l'altro giorno ve glielo dico, adesso l'ho trovato, guarda, ho trovato proprio la nota. Ma su SNS lo dite forse, però c'è anche una, ci sono due versioni che sono. No, ma non sono due versioni, questa è una nota di Viale Mazzini, questa è una nota della RAI, della direzione della RAI, praticamente del presidente della RAI. Ha detto di no, tre che deve tenersi a norme di legge, regolamenti eccetera eccetera, quindi non è che può fare quello che ha avuto, però questa è una nota della RAI che ho letto, no? La lei che ha mandato, quindi sono tutte stupidaggini quelle che stanno dicendo, scusando, perché l'altro giorno che io dicevo questo, sono per forti limiti in internet, l'ho trovato l'articolo che mi interessava, che questa è la legge di Viale Mazzini, quindi niente buffo, il canone RAI, se uno non lo paga ti smettono 3 anni di faccia dietro, è molto lunga la questione, ti posso mandare anche tutta la documentazione per fare la disdetta che ce l'ha. Ciao, noi già lo paghiamo qua a casa, però io, cioè, non si capisce, loro dicono così la RAI, dice così, io lo so questa cosa qua, lo so. Però che si capi di, non volevo manco pronunciarmi, dicono di diversa cosa. Vabbè, adesso non pensi che è meglio, no? Mi incanto. Comunque, è così. Ricevuto, qua. Sì, ho ricevuto. Vabbè, comunque, bisogna sicuramente stare allerta e capire. Però questa nota è abbastanza tranquilla e seria, e quindi la prendo in considerazione. Vabbè, vi saluto tutti, vi auguro un buon proseguo di questione, vi ascolto ma non le prendo più. Buonanotte a tutti, Gianni, se ci sei riprendi per Fabrizio, altrimenti riprendi tu Antonio Mongo. Buonanotte a tutti. Ok, riprendo un attimino io. Ciao Fabri, ben ascoltato. Vabbè, comunque, Fabri, queste sono normative già che diciamo, erano già in corso già da tempo, diciamo, sappiamo benissimo che quando uno usa un computer o usa, diciamo, un canale, esso sia, diciamo, tramite parabola, tramite cosa che tu ricevi o segnalerai, sai benissimo, diciamo, che devi pagare, diciamo, il canone RAI, perché stai utilizzando e ricevendo, diciamo, la comunicazione RAI, e questo lo sapevamo benissimo. Tutto ciò adesso, tutto questo subuglio, chiamiamolo subuglio, è successo perché logicamente, diciamo, gli evasori, diciamo, chi non pagava, diciamo, il canone RAI erano un numero molto eccessivo. E quindi arrivato a questo punto adesso ci sono maggiori controlli, tutto lì. Va bene, tutto ciò comunque vi saluto, dai, ciao Fabrizio, ben ascoltato, sono su Crode. Ciao Crode, se mi ascolti, però purtroppo io non riesco a tirarti fuori, causa questa del QRM. Saluto circolarmente tutti quanti, da parte mia, QRT, alle prossime. Riprendi Fabri. Riprendo io, vediamo chi ci è rimasto, però io sono entrato perché stavo ascoltando che sta facendo le cose qua, ho sentito questa storia qui, dall'altro giorno glielo dico a Andrade che non è così, e lui continua, non è così, perché mi ricordo che avevano mandato alla marea di aziende tutti i canoni a pagare, chi bastava avere una connessione internet, allora ti mandava, allora c'è stata una mezza rivoluzione così, allora la RAI centrale, nella persona del presidente della RAI ha rilasciato questa nota dove diceva che né che chiunque possedeva una commissione ADSL non era obbligato a corrispondere il canone RAI se non quelle attività, ma non tutte, perché gli avevano mandato a prendere tutti quelli che avevano uno studio, avvocati, tutti, ma perché da 500 euro perché li pagavi di più, e lo spiegavi solo per quelle aziende che veramente li utilizzano, nel senso che hanno un televisore appeso dove a tutti fanno volere quello lì e lo prendono il segnale tramite RAI, quel book che ti dovevano pagare. Capito? Infatti c'era questa nota, era del 18 di febbraio, era uscita questa nota, e mi ricordavo bene, cazzo, infatti ho bastato digitare in rete lì e me l'ho ricordato. Però se c'è il blog, così gliela rileggo. Vero, ma cosa io? Chiappa. Poi, chiappa, ho detto non metti loro su web. Si sono messi loro, cioè nessuno gli ha detto niente. Poi anche questi stronzi qua dicono un'altra cosa, cosa vogliono pagare? Il canone quando si mettono questi programmi non te li fanno manco vedere perché è crepitato. Che siamo piacenti, siamo, no? No, per questo servizio non è disponibile. Allora cosa cavolo mi vogliono mettere? Vogliono che paghi il canone uno. Quando tu non fai un servizio buono, ma fa cagare, vai. Perché c'è quella smettita così, c'è la volessa quella cosa, la verità. Se non lo sapevo che era così. Cioè, loro dicono così, ma è così che deve essere. Cosa cavolo fai pagare se poi metti? Cioè, ma a vedere una cosa che ha fatto se ne è accreditato, non puoi manco vedere. Ma va a cagare, vai. E così e così, infatti no, io adesso stavo guardando questo anno servizio pubblico con Santoro che già me lo guardo, poi mi stavo ascoltando, su sto per quello sono entrato per salutare e via. Poi, non so se il grodo c'è l'orecchio rilanciato o se pure è sparito, quindi proviamo grodo sparito, adesso mi hanno realizzato, la prossima volta glielo leggo, ma poi che ci è rimasto, che io continuo a fare quello che stavo facendo, chi ci è rimasto, io tu, poi Bombo, chi ci è rimasto? Molto che ci è rimasto, ecco, che mi togliessero anche, perché ci siamo di accogliere, incorporate cosa, adesso basta mettere una. Io non vedo che si può fare perché io ho la televisione a un demand pure. E un demand? Anche su internet si possono vedere anche i film e tutto quanto. Alla televisione normale. E su quanto che ne togliessero questi capitelli vecchi da sopravvivere. Mettiamo un capo e funziona bene, funziona. Dicevo che il capo non si fanno pagare l'anima dei soldi e poi si mettono limitazione e cosa. Invece la televisione, via internet, via. Ci saremmo risparmiati anche un sacco di pescate, capelli e cappellari. Vero, scusate se riprendo così, ma vero è anche che se mi dovessero pagare la connessione a internet, a questo punto io pagherei anche il canone. Cioè loro mi pagano la connessione grazie alla quale io devo ricevere una rete RAI e allora sì, allora ci stiamo, andiamo per compensazione, tu mi fai pagare 100 euro l'anno la connessione internet e io mi metto nella condizione di pagarti il canone RAI, cioè 100 euro. Io ho capito, ma tu l'hai sentito quello che hai detto per te? Un attimo, cosa hai detto? Ma sono andato via, ti ho fatto a pezzettini e quando ti faccio a pezzettini tu chiudi. Oh yeah. Dai, dimmi. Allora, ti ho detto che quello che ti dicevo l'altro giorno, e tu continui a dire che vanno e farò, e ti ho sentito di qua nuovamente, e tu dicendo che stai sbagliando. E tu dici, noi così, più che tu ti colleghi a questa nota, a un articolo che è uscito, basta possedere un computer, un aiuti 5 giorni, non aiuti di giorni, 5 milioni di imprese italiane che hanno ricevuto una lettera diretta dalla RAI contenente induzione di pagamento della tassa con la novità una prova se ti possono una prego 3 giorni come dicevi tu a motivazione di un festival RAI con un regione petto del 38 immaginate un po' il 246 la precisazione eccetera eccetera eccetera soggetti 200 milioni di lire cioè come dicevi tu. Però dopo, quello che ti dicevo, siccome si sono sollevate le associazioni, i consumatori, un casino che era anticostituzionale, la RAI, e ti dicevo, retromarcia RAI, niente, canone per computer iPhone, la RAI risponde sulla questione del canone per chi ha un computer o telefonini, la richiesta si legge in una nota di Viale Mazzini, da quella della direzione di Viale Mazzini, della RAI, si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori digitali, cioè praticamente qua dice che esclusivamente a quelle imprese non abitazioni, a quelle imprese che usano veramente il computer, nel senso che magari proiettano in uno studio, hanno il televisore appeso fuori e prendono il segnale dal computer. La RAI aveva inviato un'induzione di pagamento a 5 milioni di imprese chiedendo il pagamento del canone sul quota apparecchi, eccetera, videofoni, eccetera, eccetera. E ricorda quello che ti dicevo, in cui precisa, la RAI ha seguito un confronto avvenuto questa mattina con il ministro dello sviluppo e con precisa che non ha mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, tablet o gli smartphone. Questo è un incontro che ha avuto la RAI con il ministro dello sviluppo. La lettera inviata dalla direzione abbonamenti RAI riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso in computer si è utilizzato come televisore digital streaming, come ti dicevo, come televisore per fermo, restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tale impresa, società eccetera eccetera c'è quindi limite il campo proprio a una fessione. Quindi quello che io oggi ti dicevo, ma non ricordo cosa, non è che ho sempre fatto per essere preso col beneficio del dubbio, ma quando fai un'affermazione è che tu prendi col beneficio del dubbio, perché se io ti dicevo così c'è poca memoria, però da qualche parte l'avevo letta questa roba qua, quindi il dubbio a me mi è venuto, sono andato a cercarlo e questa è la lettera. Sì, no, se tu l'abbia cercata non ho il dubbio, se però io non abbia parlato per sentito dire non v'è il dubbio anch'esso, e cioè io stamattina è venuto qua in una casa che chiaramente è in locazione e non in affitto come molti dicono, perché l'affitto sia su locali atti alla vendita, quindi atti al guadagno, studi commerciali e esercizi pubblici, quelli sono in affitto, visto che stiamo facendo lezioni di giurisprudenza, tutto l'altro è locazione, quindi le case di civile abitazione sono in locazione. Comunque si è presentato un ufficiale, anzi un agente di polizia giudiziaria evidentemente, con tanto di tesserino RAI, si è presentato molto gentile e molto onesto pareva, dicendo appunto, asserendo quello che ti ho appena detto, cioè che a seguito del fatto che il proprietario di casa, pur avendo dichiarato di non avere un televisore, però diceva di avere una connessione internet, di conseguenza implicitamente è come se avesse un apparato atto a ricevere le trasmissioni RAI o potenzialmente atto a ricevere le cose. Come tale gli stava dando, non stava sanzionando, ma gli stava dando gli stava facendo pagare in dodicesimi il canone RAI per l'anno 2012. Sì, ho capito. E io infatti ti dicevo, guarda, che sono, che può venire chiunque possa venire, non è la prima volta che sono venuti a casa, sono anche venuti a casa con la storia, e gli ho detto che mio marito non c'era, mia moglie, di ripassare quando c'era mio marito, quindi queste cose si è occupato a lui, e non ha fatto nemmeno entrare a casa, l'ha lasciato giù, l'ha risposto al gittofono. Perché? Perché se ti fai una ricerca su internet, a prescindere questa lettera che ti ho letto è una dichiarazione fatta dalla RAI col ministro, quindi vale molto di più di un piccolo pallino che si presenta con un tesserino, che ti posso garantire che lavorano quelli a percentuale, che non lavorano né per la RAI, per niente, hanno questa specie di tesserino che gli danno e sparano dei piazzati come quelli che si presentano come fiscali assoluti, presentano per venderti i contratti, perché loro hanno una percentuale. Quindi a me fa molto più fuori quello che ti ho detto adesso, un incontro tra presidente della RAI e ministro, dove dicono che niente è dovuto. Sono venuti, sarà 5-6 anni, 7 anni che mi mandano una lettera che mi diffidano di pagare il canone RAI, sono venuti anche a casa, non li ho aperti, mi è arrivata una lettera dove mi dice che siamo venuti e lei eccetera eccetera deve pagare il canone RAI, lo pagherò adesso e non pagherà più niente, come che mi vogliono fare lo sconto. Siccome non mi hanno mai mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno, io non ho mai ricevuto da questa gente niente. Il giorno, e non mi ha risposto, il giorno che mi manderanno una raccomandata dove mi chiedono il canone RAI, a quel punto gli rispondo e gli risponderò che non ho nessun mezzo idoneo per ricevere, eccetera, eccetera, tutta quella pappardella, che non intendo pagare, anzi li rifido da continuare a rompere i coglioni, diciamo scusando l'espressione che a questo valore 11 si può dire, e li rifido pure, e non è pago. Per pagarlo l'unica maniera in Italia ancora, perché siamo in democrazia e devi sempre provare, non è che mi sembra, devi provare che io ho un televisore, devi venire a casa, entrare a casa, non ti faccio entrare, quindi deve essere il magistrato che dà incarico a un ente che può essere la Guardia di Finanza, Polizia Postale, con un mandato per venire a casa a farti un controllo. A quel punto sì, nel momento che viene un controllo del genere, e non è sì, guardi, no, l'ho comprato, era una previsione che mi hanno regalato, ho recuperato, vedi, è giusto queste cose, me l'ha aggiustata e me l'ho piattata una settimana fa, adesso lo pago, mi dà il tempo, e dal momento pagherò il canone. E ti volevo dire, dal momento pagherò il canone, punto. E beh, ma secondo te, con tutti i casini che sono mai successi in Italia, che siano andati con un mandato a controllare un televisore, ma ti pare che tutti i casini un magistrato che gli fa uno, vai, facciamo un controllo, perché questo non pagherà, il magistrato dice, ma vai, girami i coglioni, tu il canone RAI, capito? Perché ancora non c'è nessun caso che sia mai capitato che sono venuti la Guardia di Finanza a casa con un mandato, perché se viene la Guardia di Finanza e non c'è un mandato di perquisizione, a casa mia non entra. Io di sostenere questo mi sarei vergognato fossi stato in te, perché grazie alle persone come te che non pagano il canone RAI, se noi ci dobbiamo ancora sopportare gente come Pippo Baudo, perché la RAI non ha i soldi per poter chiamare gente fresca che vale, che deve pagare. Questo grazie alla gente come te. Pagalo cazzo il canone, pagalo. A pagare, certo. Io ho convinto che prima le paghi, adesso le tasse le pago tutte, anche gli appartamenti in affitto posso pagare le tasse, per dirti no, io le pago, ma questa non la voglio pagare, non sono le 100 euro all'anno, questo per principio non le voglio pagare, per principio, sai cosa vuol dire, non le voglio pagare per principio, perché mi si giri poi, a parte che io non le sto guardando, tu lo sai che televisione, stavo guardando, mi ha fatto anche quello in servizio pubblico, ma tramite computer, che è un sito che si è scollegato, se la RAI, eccetera, eccetera, per dire, ma non me ne può fregare, i bambini guardano la carta animata, la verità, quello sì. Però poi alla fine, è una questione di principio, quando sarà, io pagherò il canone, cioè devo essere proprio costretto. Può dire, quando ti costringono ad andare in guerra, che non ci può andare, uguale, proprio quando vengono ti dicono, guarda, quello è il muro, o vengo in guerra, o ti fucilo per diserzione, va bene, vado in guerra. Cazzo, così farò io. Ma tu lo paghi il canone RAI. Adesso io ti faccio una domanda. Non so se conosci quelle che sono le mie idee politiche. Quindi tu mi devi spiegare perché devo dare il 33% di questo canone RAI a una rete che dichiaratamente in un regime democratico come quello italiano si proclama contraria, io te lo appoggio, politica, il mio modo di vedere la vita, il mio modo di vedere il mondo, all'interno della nazione in cui abito. Cioè io li devo fare per schiattare, perché o comunque le reti private possono dire, possono fare quello che vogliono, perché non stanno prendendo soldi dalle mie tasche. Tu mi devi spiegare perché Rai 3, rete dichiaratamente comunista, si deve beccare soldi dal sottoscritto. Ti ho dato una risposta. Tu mi sei rompi i coglioni, intanto non paghi il camerai e rompi i coglioni agli altri. Porca puttana, cacchio, come va risposto a dire parolacce a quest'ora? Ciao, motopompa. Motopompa? Sì, ciao, scultore. Non pagare, non pagare, tutti i dini. Tanto, non ci deve la finanza futura, fregatene, al limite ti mando una lettera di salute, grazie. Oh, amici, sì, Antonio. Ciao, tu saluto che ti ho sentito. Ciao, anche a Porchetto. E pagate il canone, quando vi potrò pagare un numero per tutti voi. Vicentetta, posso dirle una cosa? Che dirla vai? Gamba, una volta sono venuti da una persona a capitare qua in zona, dai. E ha detto proprio quello lì dentro al campanello. Ciao, perché? Ciao. La Rai siamo, vogliamo vedere per il canone del Rai, dai, tutti quanti in una specie. Ha pigliato la mappa da baseball, adesso gli ha detto, ascolti, gli ha detto, se non te le fai immediatamente, ti spacco un capo con la mappa da baseball, a te che ti metti qua la televisione a bianchi, alza come se sei uscito correndo che c'ho dei pomi. Ma io così no, io lo faccio elegantemente, quando pongo la tua, fammi il canone. Aspetta, e pure sapevo che avevo la televisione in casa e pagava, era diventato. Sì, lo già lo paghiamo già. Ma buono. Cazzo, ma chi è sto cazzo? Ha pigliato che sta cosa, ma tu devi vedere quello là a cazzo. Fuggendo e sto cazzo, però mandate. Sì. Non mi controllo un attimino di segnale, solo di segnale, guarda un po'. Hola. 9.30. Abbastanza. Aspetta. Abbasso. Rubasso. Ce l'hai anche vicino, non lo prendo. e sono incomodato la notte. Ma se trasmetto una lata lo sai un po', eh? Sai che se trasmetto da là, c'è quello che aveva, non ci deve mai qua a casa, sono stata la porta. Dimmi, ma eri scendi solo con quattro fatte, già non fai 30 arrivi a casa. Immaginiamo che se ne avrebbe dato un altro paradiso o qualche altra cosa. Ma c'è uno dei due vicini che c'entra quello, adesso scherziamo. Non so se è più basso perlomeno. Falchetto, Fabrizio arrivano bene e anche coso. Quindi che va bene, va bene. Ah, è coso, chi è coso? Coso chi? Diritti qua su, di sopra, ho girato la parte sua, sento solo a te, cioè lui non a te, quindi. Se uno lo va lì, cazzo, è attacco 74. 940, non vedo. Lauri. Cazzo, mi siete ammazzati in vita. Adesso salgo sul tetto, cazzo, vi sparo tutti. Hola. normali. Pompa, dove ti sei, tu parliamo di là e tu parli da solo con muro. Vogliamo sentire che sono muro? Visto quello te. Piacere un attimo, fai se traspondi un attimino. Un bacio. Io voglio anche. Bene, ti schiaccio. Un palacco muro. E adesso, adesso la prima poi che fa un lavoretto, adesso è ciccio. Sistema tutto il sistema, non ti preoccupare. Sto sempre facendo tanta gente. Sì, certo, ma fatto io dalle di gavette, non sa quella vita là. A noi che lo passi. Fanno schiattata, se tanto lui mi sono venuto dal 27, io invece sono venuto di qua. Hai visto? Così pompa 300, noi pompiamo 5 e siamo a posto e lo passiamo. Così impara. Ma di dove parti ho troppo vecchio. Minchia, ho troppo. Però io vuoi di crepa. Non la vuole, mi vuole fare la vuole, me lo troppo. Signor Pompù, pensate quasi, se vuoi, ma che apparecchio sto usando? Un apparecchio serio? Sì, il tira 70. No, non su quello, su quello che io ho fatto di sé. Ma c'è uno che dice che sei gaggio? Io sono bene che manco questo. Io invece vado a vedere la frequenza di così e punti lo sputtano, così parla lui. A me si dice che sono un gaggio. Io lo so che buon che è per il parlando, già lo so anche io la frequenza sua. Non ti preoccupare, già c'è un giorno che lo sento. Dove c'è gente? Lo so, come provate? C'è una ragazza, sembra che, vabbè, comunque sia, non lo so, una voce vocale, una cosa del genere, chiama come vuoi, che dice la frequenza e anche dall'imbara. Sembra da Roma, non lo è un computer. Sì, sì. Come si chiama? Sintetizzatore vocale, adesso non mi ricordo una cosa del genere. C'è un cellulare che dice la frequenza dove sta trasmettendo, quel ponte. Senti tutto, la verità. Ma chi è questa qua? Che frequenza è? La riascolto questo, sì. La frequenza del ponte di dell'imbara, 482525. Sembra che abbia aperto l'aria condizionata con tutte le apparecchiature che ha. scusa, papà, aspetta un attimo. Aspetta un secondo. Ok. Adesso fatti la bella. Non penso che andai in Fabri. Come? Guarda, non penso che andai in una... U oppure una normale? Io ho una in U, utilizzo per l'ascolto, ho due antenne, ho uno un discone per fare la larga banda, invece per ascoltare in U e in V, ho quella da 5 metri e mezzo, forse non mi ricordo quella. Vabbè, comunque faccio un buon ascolto, riesco a sentire un po' tutti anche dalla Corsica, arrivavo comunque sento anche qualcosa in diretta, e senza direttiva dall'Italia. Bene, ok. Io sto usando il Gubbino adesso, anche perché la conduttatore ci sono fuori la finestra, sono staccato il PL, adesso devo andare a gancio. In questo periodo sto facendo un po' di ascolti, quindi ho montato delle antenne più simili, se no non riuscivo ad ascoltare bene la chiesa. Avevo montato più o meno un'antenna per ogni banda. E beh, perché... No, Fabrizio, se potessi fare una domanda. Anche due. Ma di montare la stazione, cosa deve cominciare a modulare? Diciamo che dobbiamo lavorare, serve il discone, sto prendendo. Sì, avevo il discone perché avevo ricevuto io, poi quando ho ripreso l'attività la CB aveva avuto voglia di rifare ascolto, ho tirato fuori un po' di ricevitori, che due o tre ricevitori, due o tre no, una cosa e l'altra, e allora ho montato le antenne perché non riuscivo ad ascoltare come si deve, mi sono fatto chiesto la cosa doppia se vuole, giusto per essere più tranquillo là. E quindi poi magari quelle antenne serviranno un domani se dovessi riuscire a prendere la patente. Ma perché io quel discone lì me lo ricordo sempre che ce l'avete sempre attaccato anche prima di modulare, infatti dicevo di chi è quella, dicevo sempre di chi è quel discone, di quel discone era il tuo, adesso mi è venuto un colpo di genio perché lo vedevo sempre. Sì, lo utilizzavo perché comunque un ricevitore no, l'ho sempre avuto, poi detto, una volta che fai ascolto come si deve, poi ascolto molto anche le quello di casa, cioè il radio, e quindi mi servono antenne come si deve per fare determinati tipi di ascolto. E poi un domani potrebbero servire al momento giusto. Era sempre montato, me lo ricordo bene. E comunque già, già anda dai. E discone comunque senti tutto, anche 27 funziona. Vabbè, discone comunque riceve tutto, è la verità, è anche la ultima per tutto. C'è una piagama di trasmissione eccezione. Sì, ma quel discone che ciuio è quello che può anche trasmettere su alcune frequenze. Domani tu sarai a banco, giusto? No, domani non dovrei. Allora ti faccio chiamata qualcosa, così voglio provare il portatile. Sono pari che non lo uso. Ti chiamo nel primo canale dell'epidito ogni mattina. Se ci sei. Se me lo metti in carica, ti portatile così ogni mattina la... ti chiamo. E poi ci beviamo un bel caffè. Chiama se mi trovo io dalla mattina, non credo che mi trovi in radio, comunque. Perché devo uscire, fare quel forse chiamo Claudio se sono in giro devo chiamare a Claudio a versi un caffè domani mattina, se sono a Sassari. Vabbè, come vuoi. Già c'è un rapporto appresso ogni mattina, dimetterà. Fammi un suono, se ci sei, tanto in ascolto lascio. Me lo utilizzo un po' che deve fare un tempo che fermo, capito? Quindi se ci sei, ci vediamo un bel caffè tutti, e se ne abbia ancora. Beh, ok, se ci sentiamo volentieri, volentieri. Poi mi sta rinfrescando, qui c'era un caldo poco fa, mamma mia, qua sono in un buco, allora, il giorno che capita la persona in un buco. buco, però sono ben attrezzato, non manca niente, però è così chiuso la porta, non si può stare. Non... Ma io sto bene, qua c'è un fresco, in verità c'è un fresco, sto bene. L'unico problema è che la sera verso le 2:30 c'è un... non c'è la caldaia, c'è un vespe, c'è un vespe, quindi la faccio fuori. Adesso lo studio il metodo perché, cioè, a farlo così su dei piedi, in giornata a casa non conviene, invece quando c'è il vento le vespe non si muovono. E capita se aspetta un momento produce una bella passata del vento, e così sputa un po' di CDC. Che sputa, sputa, sputa. E cosa faccio? Non ho tempo a casa, non capo niente, non in casa, me la butto per impungere dalla perigina, lo sai Marco? Non impungo, vabbè. No, no, ma vabbè. Ciao a tutti, vi saluto, ciao. Ciao, Marco, ci sentiamo alle prossime. Dopo la sparizione mai, ciao Antu, ci sentiamo le prossime. Ah, poi non è sparito, ciao, è figliato Antonio, un grotto. Perfetto. Lo faccio un attimo, c'è una bassa. Ah, ti aspetto, ci sei. Sparito. Ogni tanto fischio io qua, io fischio. Ciao Fabrizio. Fabrizio, pomeriggio. Mi hai ascolti bene, sì. Se tu scendi a... Ma Fabri? Se mettiamo un eco colt senza effetto di colt, ma effetto ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù, non va bene lo stesso. Sì, che va bene lo stesso, sai che cos'è? Che a me che si cavo i baracchini tutti modificati non servono un cazzo, secondo me. Sì, va bene, lo so anch'io quello. Il gestore è quello che è in trasmissione, magari a parte dispositivo, comunque va bene lo stesso. Ci vengono a commentare dopo il nuovo attore, quindi è come se tu ci metti un... Insomma, non so se hai mai passato un CD. La faccio direttamente a questo microfono, faccio il CD e comincia a fare ta ta ta ta ta, sente la musica che è perfetta, sente e comincia a vedere i cosi della musica che salgono le scene da una parte all'altra. Uguale. Ma infatti, per carità, perché hai un grande momento salutario. È un po' impegnato. Sta facendo dividendi. Chi sta contando soldi? I dividendi sta facendo con la banca, capito? Adesso quello che incassa con Monti deve metà a lui, metà a Monti. Poi la piazza sta montando di testa solo. Dici che perché? TP5 parenti so, c'è rimasto più nessuno. Birillo. Attento Birillo. Ma puttane va in giro. Dove sono Birillo? Birillo, Birillo, Birillo, un attimo, senso, ma sapete come vanno le cose? Ci è mandata la cosa di Fiume Santo. Hai sistemato quello che hai sistemato? Sto facendo. Minchia, che cazzo, tutti quei 1000 euro al mese non mi verranno più, vaffanculo. Non è quello il problema. Il fatto c'è la coppa della religione. Se no, a quest'ora, lo voglio io. Spero di non avere problemi, tanto che mi toccherà girare il cazzo in punto invece di girare il Jaguar, cosa cazzo ci posso fare? Non c'è da fare, c'era da una campagna dove puoi svernare, c'è il gas, metà e ci asco, facciamo così, io vedo il gas metà, mi date un po' di soldi per usarlo, e invece non il Jaguar, no, il Ferrari. Ragazzi, allora, cazzo. Io non entro, la devo aprire, qui devo fare un lavoretto, ma c'è un caldo, No, io non sto bene, già non è dove, non ne ho adesso. Ma c'è la camicia per appena, mi credo metà, perché c'erano temporali di Agenda Sardegna, ho visto che c'era un po' nuvoloso verso Rosino, la zona di Azieri, Moves e cose così, forse lui ha fatto qualche grandinato, senz'altro. Si può preparare vestiti là, poi qua niente, caldo, umido, strano, senti un odore come se avesse piovuto vicino. Come va? E se ha piovuto quei sanzini, non si capite. Sento che caldo, mamma mia. E io mi ricordo che non entra, se no lo chiudo. Guarda, c'è una minaccia. Inizio, inizio che entra. Ma come sei entrato solo, Fotografando la luna. Stai fotografando? La luna. Ma per i telegruppi? Non è per i telegruppi di regina. Ti ha voluto quello, è stato qua tocca a noi. Io passo in ascolto, Come vuoi, non c'è problema. Parlate, se non vi posso ascoltare. Cosa c'è di meno? Carità. Fabrizio. Non ci sei uscito. Che io sono qui se parlavate, mi faceva anche piacere. Anche a me, per questo. Ma se non parlate, cosa vuoi di mica? Devo fare un attento a provincia, reference frequency, frequency, però non so a questa canto frequenza di riferimento. Ho capito. Se mi sia 14.000, però non sono sicuro. No, non sono di là, però sono di qua. Quindi non so se ci sei di qui. Ci sia più per il traffico, questo non posso dire. Ma il grotto se n'è andato. E quale c'è qua, che devo fare? Il compito c'è, è acceso. Sempre, sempre. Allora vai su Facebook e metti il nome Fenfen. No, non ci ho gatto, che se sto facendo roba ci ho aperto la pagina qua. Cato ten ten, cato del buccio, buco ten ten. Cato fen fen, no ten ten. Fen fen lì. Si scriva le, cioè si dice, si scrive le. E shhh. È cinese, guarda che... Scrivi fen fen lì. Shhh, ti ascolto. Almeno... Palle, giù, ci sei ancora? Dico, cose in crotone, infatti io avrei voluto ascoltare dopo che facevo una cosa. Siete impegnato in amore, quindi aspetta facendo il maniaco a quest'ora. In una settimana che non le prende, lo chiami. Cerca di capire anche tu. Domani venerdì non lavora, quindi si mette la prima settimana. Prima nel paese, poi venerdì entra a casa e già adesso mi riposo, mi sdraio. Mi faccio una bella frullato di tutto, di frutta, con fagli americani. E poi piatto il tutto. Piatto sparito, bro, è sparito, tu, mamma mia, è sparito. Vedi che l'ascolto, ti vedo qua, non è sparito. Di là. Lì sta. Che vuole? Da però. Apri. Ehi, parlate pure che mi piace ascoltarmi a me. Non ci suscita un concesso adesso, siete uno, sì. Devo parlare piano. Come va, brote? Ci ha fatto male così. Cata, ci vuoi brucia tutto, ho sbagliato il selettore. Speriamo. Brodici, sì. Bravo. Tutto a posto, sì. Tu, ma tutto a posto. Esatto, Io voglio che parli, perché vi devo ascoltare che sto facendo cose. Però rispondi altro, da. Non ti risponde, senpai. Fabri. Molto, sì. Non sono morto, sto facendo cose, ma se continuiamo così, morirò. E hai fatto un affronto, siete più vicino, invece ne rispondevi in uomo. Capito, non può soffrire lui, no? Non si aspettava. Cata, io parla che sto facendo, lasciatemi in ascolto un attimino, se no faccio danno. No, fai, al limite, vai in quello di... Signor Romano, siamo di qui a mezzanotte tutti e due. Basta chiamarmi se su quella frequenza. Non c'è problema, ci viene un caffè come lo volete voi.